Infierno. Esto en este programa. Onderoto. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it. It's your time. Da che iniziamo, va? Welcome. Ma vi sono mancato. Che freddo, anche oggi freddo boia. Quando torna, quando arriva il bel tempo. Get ready for some fireworks. La settimana scorsa è stata una settimana corta, perché sono stato male anche il sottoscritto. Ha beccato questa maledetta influenza che gira in questo periodo, quindi giovedì e venerdì non ci siamo sentiti. Your favorite DJ. E oggi eccomi qua pronto per una nuova puntata, prima della settimana, oggi che è il lunedì, è il 13 di febbraio, il giorno prima di San Valentino. Flashback. Oggi volevo comunicarvi una cosa importante, dedicheremo tutti i flashback alla compianta Whitney Houston, questa grande artista che proprio ieri ci ha lasciato, ieri o l'altro ieri, mamma mia mi sfugge. Comunque fatto sta che dedicheremo oggi in lungo e largo. Tanti di grandi successi, e quindi per l'appunto oggi dedicheremo questa giornata con una delle finestre più importanti della nostra trasmissione, ovvero il disco fritto, il flashback, fate un po' voi, a questa grande cantante che l'altro ieri purtroppo ci ha lasciato. Questa era Wanna Dance With Somebody, un attimo di pausa, poi On The Road tornerà ancora live 101.4 in streaming CRM Pirelli. singolo del Coldplay, si chiama Charlie Brown. Non so se è dedicata al famoso Charlie Brown, quella del cartone animato. Sentite che notizia bizzarra che arriva dall'Inghilterra: ci si può allenare mentre mangia. Sì, tutto questo si può fare. Adesso c'è una nuova posateria in Inghilterra, gli inglesi potranno provarci grazie a questa bizzarra invenzione, le posate manubrio che pesano circa un chilo ciascuno, così mentre mangi ti alleni. C'è la forchetta che pesa un chilo, il coltello che pesa altrettanto un chilo, quindi tu mentre mangi fai l'allenamento. Le Hit Fit Cotwell si chiamano, sono composte da un set di 32 posate, tutto in acciaio inox. Ma quanto se ne inventano! Però farai solo bicipiti, tricipiti, dico. Ti alleni solo il braccio, il polso. Loro si chiamano La Mosca! Quando non tengas donde ir, quando te sangre la nariz, quando te duela la cabeza, y se termina esa cerveza, quando las alas de tu avión se derritan sin razón, y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Te voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré. tante cose avremo da raccontarci oggi, soprattutto di dal ritorno di un bel weekend calcistico. Sì, si è giocato. Insomma, si è giocato. Quello che poi stasera ci sono altre partite, ma tutto questo lo sapete, poi lo commenteremo assieme al mio fido, il mio unico commentatore, il mio grande amico Rambo. Anzi, poi una volta che siamo in diretta gli devo chiedere un favore. Voglio vedere se lui domani, in occasione della giornata degli innamorati di San Valentino, viene in studio a fare il programma in diretta con me. Intanto volevo ricordarvi che stasera, a partire dalle ore 20 in poi, trasmetteremo il consiglio comunale di Cefalù in audio e video su internet www.crmpradio.it o sui 101.4. Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo, noi due due foglie cadute dallo stesso ramo, noi due che del terrore abbiamo fatto amore, noi due due arterie diverse dello stesso cuore. Tu ora dove sei? Se vivi un'altra storia, con chi stai? Chi ti prenderà? E passa il tempo lento, mi giro e mi tormento, e se ti chiamo lo so che trovo sempre spento, perché non ci parliamo, perché non perdoniamo, noi due due foglie cadute dallo stesso ramo. Questa nuova canzone di Antonellone, Antonella Venditti, si chiama Unica, semplicemente unica. Voi potete continuare a segnalarcela la vostra musica, potete continuare a richiedere le vostre canzoni preferite, potete farlo tramite la nostra linea SMS al 335 5637 251, o eventualmente al nostro sito internet crmpradio.it, o ancora tramite il nostro profilo Facebook crmpradio. Sono tanti modi per farci pervenire le vostre richieste, come in questo caso Azzurro. I need to feel that you're in love again. te amo. E allora dobbiamo fermarci due minutini, poi, visto che oggi, se lo dico a beneficio di quanti magari sono posti soltanto adesso all'ascolto della nostra radio, CRM Happy Radio, soprattutto di On The Road con Roby D'Antonio anche per oggi insieme a voi sino alle 19, voglio ricordarvi che oggi gli appuntamenti del flashback li dedicheremo interamente ormai a quella grande artista che ci ha lasciato da qualche giorno, ovvero Whitney Houston. E tutto questo dopo la pubblicità. The Road Flashback. Much further, I don't wanna have. voce, mamma mia, direttamente dalla colonna sonora della film Bodyguard. Questa è I Have Nothing, un po' di emozione c'è anche nel sentire questi che sono stati i suoi grandi lavori, credo tra i più belli in assoluto di tutta la sua carriera, la colonna sonora che poi l'ha resa celebre, il film Bodyguard l'ha resa celebre un po' in tutto il mondo, ha un po' coronato quello che già era la grande star. Ed effettivamente, dicevo, un po' di emozione c'è anche in noi che facciamo questo lavoro, no? Dietro un microfono siamo cresciuti un po' con la sua musica, e questo era I Have Nothing, davvero molto molto bello, molto toccante, possiamo dire. E intanto è arrivata la conferma, quasi, secondo il sito TMZ, la famiglia della cantante è stata informata dal medico legale di Los Angeles che Whitney non è morta, annegata. Sapete che è stata trovata in una stanza d'albergo dentro una vasca da bagno? Bene, non è morta annegata, ma soltanto per una tra parentesi, per una combinazione fatale di alcol e farmaci che poi hanno un po' condizionato la sua vita, soprattutto la sua carriera ultimamente, anche se poi lei ne era uscita, poi ricadute, poi uscite, ricadute, fino a poi a portarla alla morte. Whitney Houston, I Have Nothing, intanto Laura Pausini. Un sorriso di ritorno per rispondere a un sorriso, bastava uno spazio condiviso, ma nessun altare d'oro. Bastava nella stanza di un albergo d'Europa, si potrebbe andare avanti a parlare, o si gioca, o scambiamoci uno schiaffo di pace. Vince il primo che si arrende, si offende, lo dice. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Una camminata in centro, in un pomeriggio bianco, bastava vedere il tuo fastidio, fare conti sopra l'odio. Bastava fare a meno delle buone maniere che confondono e rubano spazio e spessore, e buttarci sotto l'acqua gelata e accettare che davvero è acqua passata. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto? Siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Come ci siamo ridotti io e te. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa il meglio per sé. Bastava dire tutto anche se poco, quello che capisci dopo. Bastava masticare le parole, rimanere in verticale. Bastava, questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede povere carezze di guerra. Questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede lacrime d'argento cadere per terra. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che vuole, che fa quello che vuole. Bastava, Nickel or a Noid. I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You were sleeping on me, you were dozing. Now move, I'm Conan. Say this once, yeah, I don't give a Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world. E se non volevano passare inosservate, ci sono riuscite soprattutto la Nicki Minaj. Quando al concerto del Super Bowl ha mostrato il dito medio. Questa interpretazione, Give Me All Your Loving, il nuovo di Madonna. E per forse di causa di maggiore dobbiamo parlare anche di Grammy Awards. Sei statuette per la cantante inglese, non parlo di Madonna naturalmente, ma di Adele. In una serata naturalmente dominata nel ricordo di Whitney Houston, per forza di cose segnata dal lutto e dallo shock per la morte di Whitney Houston, Adele fa incetta di Grammy, portandosi a casa una statuetta per ogni per ognuna delle sei nomination per cui era in gara, tra le quali canzone, singolo e album dell'anno. Ma c'è stato anche tanto spazio per il rock, con Bruce Springsteen sul palco a presentare il nuovo singolo, e i Foo Fighters premiati con ben 5 Grammy Awards. Il doveroso omaggio a Whitney Houston si è concretizzato in un toccante e semplice preghiera, seguita con partecipazione da tutta la platea riunita allo Staples Center, e poi le note e il video di I Will Always Love You, brano che è stato interpretato da Jennifer Hudson. La tristezza però non ha fermato la macchina infernale dei Grammy. Un po' come nel più classico dei casi, ha tenuto fede al motto The Show Must Go On, celebrando l'ennesimo trionfo di Adele, la cantante inglese reduce da un'operazione alle corde vocali. Sapete che Adele si è fermata per un po' di tempo a causa di questa operazione. Lei si è portata a casa ben 6 Grammy, vanno ad aggiungersi ai 7 milioni di copie vendute del suo secondo album, ma interpretando dal vivo il suo successo Rolling the Deep ha anche dimostrato di essere tornata in piena forma. Poi, visto che parliamo di Grammy, vi dico che tra gli altri vincitori, Foo Fighters, con la loro hit Walk, hanno sbancato le categorie rock. Poi Jay-Z e Kanye West, miglior performance rap con Otis. Chris Brown, miglior album R&B con Fame. Lady Antebellum con il Grammy per il miglior album country con la canzone One The Night. Due premi anche per Taylor Swift per la sua canzone Mean, come DJ Skriller, che ha vinto nella categoria Dance Elettronica con Scary Monster e Nice Priest, Bon Iver e poi tanti altri. Non vi sto elencare tra le esibizioni che hanno arricchito la serata. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you. Say goodbye.

Giorgia con assieme ad Eros Ramazzotti, Inevitabile, un altro bel singolo. Adesso facciamo segnale orario, poi informazione, poi a seguire un altro bel grande successo di Whitney Houston, perché oggi stiamo dedicando gli appuntamenti con il flashback proprio a questa grande artista che ci ha lasciato da qualche On the road. Flashback. Era il 1985 quando ci regalò questo grande successo. Oggi stiamo omaggiando questa grande artista come solo sappiamo fare con la musica, regalandovi i suoi grandi successi all'interno della finestra, credo tra le più belle della nostra radio, della nostra trasmissione, anzi della mia trasmissione, ma un po' di tutti gli appuntamenti che seguite quotidianamente su CRM P Radio, ovvero il flashback Whitney Houston, With This Love Hall. Adesso un attimo di pausa, ma proprio un attimo, poi torneremo ancora insieme a regalarvi ancora tanti successi che anche voi avete contribuito a far entrare oggi nel nostro palinsesto grazie alle segnalazioni tramite il 335 5637 251. Grazie anche per aver scelto di seguirci in streaming crmpradio.it. Che stavo bene, ero solo con gli amici, è un tratto tu, se tu spiegami perché, da quando te, tutto è diverso, non volevo più restare a pensare alla mia vita, non volevo, perché è troppo tempo ormai che ho chiuso la ferita e adesso guardami. Tu scivoli pian piano, e anche se cerco di scappare in vano, mi allontano dalle stelle, e adesso guardami. Il titolo nuovo singolo, questa mia natura umana, che è un gradito ritorno fra l'altro anche quello di Gianluca Grignani. Natura umana, bella bella, poi un po' nel suo stile, sembra un po' Falco a metà, ad essere sincero. Riprendiamo quota, c'è Beyoncé, Love on Top. Bring the beat in. Stars all the way. bella questa canzone. Se prima abbiamo parlato di Oscar per la musica, i Grammy Awards per la musica, adesso volevo parlarvi dei BAFTA, il film francese di Michel Hazanavicius, fa incetta nei premi degli Oscar britannici. Ecco cosa sono i BAFTA. The Artist, c'era qualcuno che era un po' perplesso all'inizio perché trattasi di un film in bianco e nero, muto. Ebbene, The Artist ha sbancato BAFTA, gli Oscar britannici, la pellicola che aveva ricevuto il numero più alto di nomination, 12 in tutto, ha vinto infatti il premio come miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura originale, oltre che miglior musica, miglior cinematografia e miglior costume. Ci ha vinto tutto, in poche parole. Ha vinto anche il premio come miglior pubblico che è andato a vedere. Riconoscimenti anche a Jean Dujardin, interprete del film, che ha conquistato la statuetta come miglior attore protagonista. Poi durante la serata, star della kermesse è stata Marilyn Streep, che ha ricevuto il premio come miglior attrice protagonista per l'intensa interpretazione di Margaret Thatcher in The Iron Lady, la donna di ferro credo sia. Nelle categorie minori il miglior attore attrice non protagonista hanno invece tenuto banco l'82enne Christopher Plummer con il ruolo di un anziano omosessuale in Beginners e Octavia Spencer, simpatica governante di colore in The Help. Ma i riconoscimenti non sono fatti, non sono fatti attendere neanche per La Talpa, spy story ambientata negli anni 70, per il drammatico La pelle che abito di Pedro Almodovar, che si sono aggiudicati rispettivamente la statuetta come miglior film britannico e straniero. Premiati inoltre gli italiani Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, che hanno vinto il BAFTA per la scenografia di Hugo Gabret di Martin Scorsese. Quindi anche l'Italia presente a questa manifestazione, gli Oscar, i BAFTA, gli Oscar britannici. Ci fa piacere che ci sia stata anche la bandiera tricolore a capeggiare in quella bella serata. Notte fonda, senza luna, e un silenzio che mi consuma. Il tempo passa in fretta e tutto se ne va. Preda degli eventi e dell'età, ma questa paura per te non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei. Parte di lei, che parte di me. Cosa resta del dolore e di preghiere, se Dio non vuole, parole vane al vento, ti accorgi in un momento, siamo soli. E questa la realtà, ed è una paura che non passa mai. Prenditi cura di lei. è parte di lei, che è parte di me. memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love di amarsi, sì, di desiderarsi, eccetera, eccetera. I will always love you non poteva mancare in questo omaggio che oggi stiamo regalando alla grandissima Whitney Houston, questa che è stata colonna sonora del film The Bodyguard, dove lei interpreta quello che poi in realtà nella vita è una grande star e naturalmente una star che ci ha lasciato in seguito a grossi problemi. Abbiamo parlato già in lungo e largo in questa giornata. A proposito di grandi star, succede anche questo, no? Perché poi gli animali naturalmente non si rendono conto di chi ha, con chi hanno a che fare. E allora durante una breve gita nei dintorni di Los Angeles per ammirare l'habitat naturale di alcuni animali selvatici, la cantante Shakira è stata assalita da un leone marino. Il racconto di questa singolare avventura compare sulla pagina Facebook della pop star, che ha detto di essersi molto spaventata. Ti credo, un leone marino è enorme, grande, mica è una foca. Un leone marino è abbastanza mastodontico. A quanto pare il leone è saltato contro di lei mentre si stava avvicinando per osservare meglio, e soprattutto perché lei voleva accarezzarlo. E poi l'intervento del fratello ha salvato Shakira. Naturalmente ha impedito l'aggressione e tutto si è risolto solo con qualche graffio per i due. Il leone deve aver scambiato il bagliore dello schermo del mio BlackBerry per un pesce, ha detto Shakira, che oggi si è concessa invece una giornata con i più amichevoli pinguini. Certo, meglio i pinguini rispetto a un leone marino. Probabilmente è vero, il riflesso sullo schermo del BlackBerry, il leone, chissà che non l'abbia scambiato per un luccichio di un pesce, stava tentando di aggrapparlo. Poi, grazie anche all'intervento del fratello, tutto è andato per il meglio. Scusa, ma dov'era il tuo fidanzato? Perché non... 18.40 sulla radio che si sente e si vede. Intanto volevo ricordarvi ancora questo appuntamento importante sulla nostra radio, sia sui 101.4 sia su internet, quindi in diretta audio video. Stasera a partire dalle ore 20 trasmetteremo il consiglio comunale di Cefalù, quindi se siete interessati sappiate che abbiamo questo grande appuntamento che vi presenteremo intorno alle ore 20 con interviste. Naturalmente faremo sentire tutto quello che accadrà dalla sala delle capriate di Cefalù. Dicevo, insieme sino alle 19, quindi una ventina di minuti ancora da trascorrere insieme, prossimi per l'appunto alla malcapitata Shakira, che come dicevo prima è stata attaccata a questo leone marino, però credo che il leone non voleva farle del mare. No actúes tan extraño, puro como una roca. Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca. Y tantos lunares que ni yo misma conocía. Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía. Eras solo una historia más. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh. Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis. Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis, mucho antes. No dejes el barco tanto antes de que zarpemos hacia alguna isla desierta y después, después veremos si me ves desarmada porque lanzas tus misiles. Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles. Dejarás, la vida lo dirá. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh. Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis. Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis. Antes de las 6 o de las 6. Antes de las 6. Antes de las 6, che significa? Prima delle 6. Antes, prima delle 6, credo sia così. Shakira! Ai ai ai, che bella questa canzone dei Moda, si chiama Tappeto di Fragola. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce e rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole. Un tappeto di fragole. Come si fa a spiegarti se mi agito e mi rendo ridicolo? Parlami, stringimi oppure fingi di amarmi. E una foto un po' ingiallita è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra steso me ne sto, aspettando di volare un po'. Eccoci qua a guardare le nuvole. Tappeto di fragole. pure fingi di amarmi. Di fragole, bella la canzone, eh? Niente male, questa nuova dei Moda. Mamma mia, com'è arrivato pimpante questo disco! Voglio questo disco che piace al mio amico Rambo. Probabilmente oggi non riusciamo a fare il collegamento, abbiamo problemi sulla linea, però li risolveremo. Vediamo, chissà che domani Rambo non venga proprio direttamente in studio a fare con me il programma di San Valentino. Domani vorrei dedicare qualche momento a questa festa degli innamorati. Domani, il 14 di febbraio, San Valentino. Avete già pensato ai regali? Una bella cena, un regalino, che so, un mazzo di fiori. Io credo che poi alla fine i fiori sono quelli sempre più accettati. Pure un bel profumino. Devo salutare Ignazio nel Bronx. Ma nel Bronx Ignazio si festeggia anche San Valentino domani? Sì. Vedremo. Poi domani vedremo in tutto il mondo come si festeggia il San Valentino in tutto il mondo. On the world. Vai che balliamo. Felicidade, a magia do carnaval. Felicidade, o meu samba me faz cantar. Felicidade, a magia do carnaval. Felicidade, o meu samba me faz cantar. We'll be right back. anzi loro si chiamano Barrio Latino, insieme a GG, la voce è quella di GG, UGG, UGG. Vi ho salutato un po' di persone all'appuntamento con il sottoscritto che va avanti sino alle 19, però ricordo ancora stasera questo evento importantissimo, visto che si parlerà di cose importanti, ci saranno interviste proprio sul campo, perché saremo in diretta audio-video dalla sala delle capriate del comune di Cefalù, perché trasmetteremo per l'appunto il consiglio comunale del comune di Cefalù in audio e video su internet www.crmpradio.it, naturalmente anche in FM sui 101.4, quindi ci saranno argomenti importantissimi, tanti ospiti ai nostri microfoni, tutto questo lo scoprirete a partire dalle ore 20. Adesso un attimo di pausa e poi cade la neve ed io non capisco che sento davvero, mi arrendo, ogni riferimento è andato via, spariti marciapiedi e le case e colline, sembrava bello ieri ed io sepolto da un suo bianco, mi specchio non so più che cosa sto guardando. Ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade, cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso quello che sento è ricordati, ricordami, tutto questo coraggio non è neve, non si scioglie mai, neanche se deve. Cose che spesso si dicono improvvisando, se mi innamorassi davvero saresti solo tu, l'ultima notte al mondo io la passerei con te, mentre felice piango e solo io posso capire al mondo quanto è inutile odiarsi nel profondo. Ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade, cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso quello che sento è ricordati, ricordami, tutto questo coraggio non è neve. Mai, neanche se deve, non darsi modo di star bene senza eccezioni, crollare davanti a tutti e poi sorridere, amare non è un privilegio, è solo abilità, e ridere di ogni problema mentre chi odia trema. Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente, è così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo, e mi ricorda che il coraggio non è come questa neve. Ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade, cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso è quello che sento. E ricordami, ricordami, tutto questo coraggio non è neve. Credo che lui questa canzone, adesso non vorrei prendere una cantonata, però questa canzone l'abbia scritta quando stava in Inghilterra durante una giornata nevosa, e quindi attualissima in questo periodo che veramente di neve ne sta venendo giù tanta, ne so qualche cosa perché questo fine settimana sono stato in quella di Gangi, zone, mamma mia quanta bella neve che c'era. E allora A proposito poi di Tiziano Ferro, lui dopo un anno dalla pubblicazione di 30 anni e una chiacchierata con papà, pubblica la parte finale di questo libro, si chiama L'amore è una cosa semplice, il sollievo dopo aver detto di essere gay, lo ha detto anche al fratello, la ricerca di una casa a Milano, il nuovo disco, un sogno soprattutto con Maria De Filippi. Lei potrebbe essere una mia potenziale amica, poi anticipa anche qualcosa per il tour col sogno di Maria De Filippi. Lui dice di aver sognato Maria De Filippi, l'unico vero significato di fondo è che voglio fare amici, però ormai sono un po' fuori target con l'età. Comunque Maria De Filippi mi piace molto perché è razionale, professionale, ma anche capace di momenti di tenerezza, e in lei vedo una mia potenziale amica. Poi qualcuno chiede anche in queste interviste, qualcuno, colui che lo sta intervistando, chiede anche del tour. Lui dice sarà semplicissimo, una via di mezzo tra Lady Gaga e Madonna. Poi naturalmente ci scherza sopra, ci sono tantissime le canzoni in scaletta, le ho già scelte, niente ingressi trionfali, quindi non ho, per carità, uno show come quello, ci vogliono un sacco di soldi, riferendosi a quello di Madonna al Super Bowl, costa troppo e non vale la pena, la gente deve poter acquistare un biglietto per vedermi in concerto senza spendere troppo. Questa è un po' la sintesi di quello che si trova all'interno di questo nuovo libro di Tiziano Ferro, che credo sia già in edicola, si chiama L'amore è una cosa semplice. Noi chiudiamo così l'appuntamento di oggi. Ricordo ancora, stasera è importante da non perdere, dalla sala Capriate di Cefalù, dalla comune di Cefalù, a partire dalle ore 20 trasmetteremo il consiglio comunale in diretta in audio e video su internet. Vi do anche il nostro sito crmpiradio.it, naturalmente poi chi non ha la possibilità di vederlo in audio e video può anche seguirlo in radio, in FM 101.4. È davvero tutto, noi ci risentiremo ancora domani, sarà una puntata particolare, sarà la puntata di San Valentino, spero di avere in studio anche Rambo, questo poi lo scoprirete domani dalle 17, bye!